Tu dirai in quel giorno: ti lodo, o Signore, tu sei stato adirato contro di me, ma la tua collera si è calmata e mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, ho fiducia e non temo, poiché la mia forza ed il mio canto è il Signore, Egli è la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle fonti della salvezza. Direte in quel giorno: celebrate il Signore, acclamate il suo nome, fate conoscere tra i popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è eccelso, cantate al Signore, poiché ha compiuto cose grandiose, ciò è conosciuto in tutta la terra. Esulta e grida di gioia, abitatrice di Sion, poiché grande è in mezzo a te il Santo d'Israele.